Nell'intenso io mi perderò, disteso, arreso al suo peso. Chiuso gli occhi e visto che la vita era un gran bignè. Buongiorno caro, diceva a me. Mordi qui, assaggerà questa grassa vita, va. Mordi qui e saprai se c'è gusto alla realtà. Nell'intenso tu già ci sei. Chiudi a chiave i piagnistei. In quel momento poi io mi svegliai sotto le sberle di lei. Io sono il re di questo grasso bignè.